Beh, il fatto, beh, intanto beh, buonasera e grazie di essere qua. Beh, il fatto che tutto sia diventato veloce, che sia un attimo andare da Via Tegrasso a Vigevano, che sia un attimo andare a Milano, che tutto corra ad una velocità fino a ieri, fino all'altro ieri, impensabile, in realtà è uno degli elementi che mi ha fatto scrivere questo libro. Perché questo è un libro dove le geografie e irrompere le geografie è una cosa importante. Come ha detto prima Paolo, è il secondo di una serie che io spero, anzi, che sicuramente insomma andrà avanti, ne sto già realizzando un terzo, che abbiamo pensato insieme io e l'editore Guido Tommasi. Cioè, in realtà io sono andato all'editore Guido Tommasi, che è un editore di Milano, è un editore che si occupa esclusivamente di cose di cibo, quindi di gastronomia. Io mi ricordo benissimo che a un certo punto della mia vita sono andato da lui e gli ho detto: guarda, ho visto, io non lo conoscevo, gli ho telefonato e ti piacerebbe fare due chiacchiere. Questo è un ragazzo abbastanza giovane con il quale siamo diventati amici. Racconto questo in particolare perché credo che stiano bene nel substrato del libro. Siamo diventati amici cominciando ad annusarci il giorno in cui io sono andato da lui e gli ho detto: ho conosciuto uno dei posti geograficamente più interessanti del mondo. Dice: oh, sono andato nell'alta Val Bombera, che è quel posto dove l'Emilia Romagna confina con il Piemonte, e attaccato lì c'è la Liguria e poi c'è la Lombardia, no? Cioè è l'incrocio di un mondo che in realtà io avevo nella testa, no? Allora questo mi guarda e mi dice: ma secondo lei un libro sulla Val Bombera chi lo compra? E io, che di mestiere faccio lo scrittore, ma contemporaneamente come tutti gli scrittori, anzi come la maggior parte degli scrittori, non so far di conto, ho guardato un po' stranito, ho detto: ma come? Tutti lo devono comprare, cioè l'incrocio tra quattro regioni è la storia del nord di questo paese, no? E allora a quel punto credo che qualsiasi altra persona avrebbe mandato a quel paese che non è la storia di quel. E invece lui mi ha detto: ma invece quest'idea di viaggiare nei luoghi a me piace, però partiamo da qualcosa dove si riconoscono davvero tutti. E siamo partiti da questo libro che è uscito nel 2008, che si intitola Lungo il Po, che è la somma dei tanti viaggi e tante frequentazioni che io ho avuto con il grande fiume, giocata nell'ultimo viaggio, che è quello da cui parte la narrazione, fatto in barca con una barchettina piccola, quindi una barca a 5,90 m che ci è stata prestata da un'associazione culturale di Pizzighettone, che è un paese sull'Adda, e noi abbiamo ripercorso quella che è l'ossatura d'acqua della Padania. Allora, tra l'altro va detto una cosa. Allora, la Padania è una parola inventata da Gianni Brera, il quale non sapeva assolutamente nulla dell'uso che ne sarebbe stato fatto successivamente, ecco, proprio per andare alla storia fa parte dei neologismi di Brera. Quando con Guido Tommasi, a cui ci accomunano una serie di cose, ma abbiamo una grande distanza proprio nel vedere il mondo, lui è un vero liberale, io sono di formazione libertaria, quindi siamo veramente a due estremità diverse, però è uno che mi sta lasciando tantissimo spazio, perché tutto sommato penso che creda in questa sorta di viaggio che racconta i luoghi così come li vedo, cioè un viaggio così come li vede un viaggiatore che li vede da una certa distanza. Allora, quando noi abbiamo pensato al secondo titolo, abbiamo pensato alla Lomellina. Abbiamo pensato alla Lomellina per tutta una serie di motivi, è un territorio al quale io sono legato per un sacco di vicissitudini, è un territorio che conosco, e a un certo punto però io ho detto, insomma, basta questi confini, cioè da geografia delle elementari, cioè che la Lomellina è quella con il triangolo che ha tre lati e il vertice non si sa qual è la linea dei fontanili. Ho detto, scusa Guido, ma se noi diciamo a una persona, andiamo in Piazza Duomo e diciamo, scusa, tu sai cos'è la linea dei fontanili, questo ti guarda e dice, e noi cos'è? Cioè parliamo di un territorio che ha delle altre cose che in qualche modo oggi lo accomunano, e quindi l'abbiamo allargato. Cioè parliamo, quel libro racconta di un viaggiare continuo tra la Lomellina, la valle del Ticino e in realtà questa idea di terra di mezzo, il titolo è dell'editore, non è mio, questa idea di terra di mezzo che è sostanzialmente la terra tra il Sesia e il Ticino, ma è anche la terra che sta a metà tra Milano e il mondo agricolo, e tra quello che siamo oggi e non sappiamo cosa saremo domani. Questo è un po' il gioco sul quale siamo stati per il titolo. Un libro viaggio che vuole raccontare oggi un territorio raccontato da lontano, cioè senza i legami di campanile, perché io qui non ho parenti, non ci sono nato, non so assolutamente niente, quindi è anche un libro imperfetto, che ha le imperfezioni di quello che il viaggiatore non trova perché non sa di poterlo trovare, nessuno gli ha detto, le strade, per quanto uno possa essere curioso, non ti portano in realtà nei luoghi che sarebbe interessante vedere. È un viaggio condito di ricette, condito di ricette sostanzialmente per tre motivi, più o meno nobili. Allora, c'è un motivo dettato dal marketing editoriale in generale. Se voi andate qualunque editore in Italia, da Mondadori a Sometti a Mantova, cioè quindi dal grandissimo al piccolissimo, gli dite: vorrei scrivere un libro che parla di produttori di cose, di cultura materiale, di cibo, di queste robe qui, questo li guarda e dice, ci sono le ricette? Dice, perché? Cioè, perché in Italia non si vendono libri di questo genere senza ricette? Cioè proprio è una cosa, secondo me non è vero, però siccome è assodato, cioè c'è questa regola, ma che editoriale dice non si vendono senza ricette, allora va bene, mettiamo le ricette. Allora anche le ricette però sono un gioco per raccontare la possibilità di ritornare a cucinare. Io credo molto in questo, cioè credo che cucinare sia un, come dire, fare dei conti con se stessi, con il proprio tempo, no? Cioè fa parte di quelle cose di cui bisognerebbe riuscire a riappropriarsi, bisognerebbe strappare, cioè come passeggiare, cucinare, leggere i libri, fanno parte di quelle cose che ti riportano a una dimensione del fare, a un respiro che ti richiede del tempo, magari poco, ma quell'attenzione su quel tempo. Sono anche un gioco appunto per vedere una geografia anche attraverso le pentole, anche attraverso il sobbollire delle pentole, anche attraverso gli odori, anche a tagliuzzare le cose, anche a una memoria che è una memoria non di quello che io ricordo in maniera lineare, ma di quello che ci si ricorda proprio per memoria olfattiva, per essere stati, per aver girato nelle cucine dei nostri genitori, nelle cucine dei nonni, per aver curiosato nel retrobottega delle trattorie, insomma, perché alla fine quando uno fa un viaggio di questo tipo racconta che cosa trova oggi e racconta che cosa è cambiato, nel periodo in cui le cose sono cambiate in una maniera più rapida. Cioè questo è un libro che guarda molto indietro nella storia, perché non si possono vedere i luoghi senza senza conoscere perlomeno un minimo di senza sapere da dove il paesaggio, la presenza umana, il fare certe cose, il fare il produrre determinate culture deriva da cosa, no? Quindi la storia è importante, ma soprattutto è importante la storia recente, cioè questa grande accelerazione del Novecento, cioè questo mondo che è cambiato in 3-4 decenni come non era cambiato mai. Io cito spesso questo esempio, se voi andate a rivedere le vecchie puntate di Viaggio lungo la Valle del Po che fece Mario Soldati nel 1957 e che per fortuna Rai 2 ha messo online da 2-3 mesi e quindi si possono vedere, cosa che non, fino a pochi mesi fa non era possibile. Allora, se voi andate alla puntata numero 8, che è quella che racconta dell'area pavese, del Ticino, eccetera, vedete questa cosa dove ci sono le lavandaie che a Borgo Ticino lavano i panni del fiume, no? Lavano i panni del fiume e c'è Mario Soldati che commenta questa cosa, dice queste signore che vanno lì tutti i giorni a lavare i panni, bucate, eccetera, eccetera, e si vestono come con gli stessi abiti che qui si usavano 400 anni fa. Allora, siamo nel 1957, oggi per fortuna nessuno va più a lavare i panni nel Ticino, quindi ci sia benedetta la lavatrice, ma il mondo è cambiato a una velocità stratosferica, cioè noi di quel mondo, di quello che vediamo, non abbiamo più nulla, perché tutto quello che c'è oggi, buono o cattivo che fosse, è stato spazzato da una grandissima velocità, che è la stessa velocità con la quale noi ci muoviamo, perché è vero che andare da qui a Milano e venire da Milano a qui è un attimo, ma è un attimo oggi. Se noi cominciamo a muoverci in un altro modo, scopriamo che non ci si mette poi così poco. Una volta andare con il battello da Casinetta di Lugagnano, lo dicevo ieri che ero lì, a Milano ci volevano 7 ore a favore di corrente. Questo significava che quello era un viaggio. Allora, è evidente che se uno deve andare a lavorare a Milano, comunque ci sono dei tempi che non possono essere quelli di un viaggio di un tempo, ma il viaggio ha dei tempi di comprensione dei luoghi che la possibilità di vedere, la possibilità di incontrare persone, che è, come dire, in qualche modo proporzionale rispetto alla velocità con cui si viaggia. Più si va piano, più persone si incontrano, più cose si vedono, più cose si comprendono. Chiaramente si arriva più tardi con uno zaino forse più colmo di cose che a noi interessano. Allora, in questa storia che è fatta di luoghi, che è fatta di agricoltori, che è fatta di cibi, che è fatta di ricette, io mi sono fatto guidare da una serie di scrittori che di questi luoghi hanno raccontato soprattutto i chiavi che a me interessavano. In particolare ho seguito tanto la penna estrosa e scontrosa appunto di Gianni Brera, che ha speso sul valore di territorio, sul valore del cibo veramente tantissimo della sua voglia di raccontare oltre al calcio, oltre allo sport, oltre a questo mondo che aveva imprigionato e che lui alla fine non amava nemmeno più. E l'altro grande scrittore da cui mi sono fatto accompagnare, è grande per me ma è sostanzialmente uno scrittore minore, che è Mario Albertarelli. Allora, Mario Albertarelli è l'unica persona che ha scritto di pesca bene, con la capacità di raccontare che cosa fosse la pesca a livello sociale, a livello di gente che viveva su un Ticino. Sono le pagine bellissime di quest'area, erano scritte da questo che è stato appunto lo scrittore di un ex e un giornalista dell'Avanti, prima poi dell'Unità, poi del Giorno, che era innamoratissimo dei pesci, in particolare del Ticino. Io credo che senza i suoi scritti, senza i suoi libri, ci sono dei pesci che sono stati anche la storia, no, di questo fiume, di questo territorio, che noi rischiamo di dimenticarci domani mattina, invece hanno una capacità evocativa incredibile. Allora, io sono venuto la prima volta a Vigevano, che avevo 13-14 anni, e ci sono venuto dopo aver letto appunto un libro di Mario Albertarelli, che raccontava di questo barbiere di Vigevano che pescava solo temoli e sparava solo i beccaccini, no? Cioè, era Dante Zavattoni. Io sono venuto apposta, sono venuto in pellegrinaggio, sono assieme a un mio amico che ho trascinato, facevamo la terza media, siamo scappati dal terza media di casa, abitavo nel Lago Dotta, e sono venuto a fare questa sorta di pellegrinaggio per trovare quest'uomo che era legato a questo pesce, che per me è una mitologia. Io la prima volta che ho avuto l'occasione di prendere in mano un temolo, prima ancora di mangiarlo, l'ho preso e l'ho usato per vedere se era vero che è un pesce che non puzza di pesce, ma odora di cetriolo, di timo, di buccia d'anguria, di non si capisce bene. È un mondo, è evocativo, è qualcosa che ti lega, cioè come quando ti dice: ma scusa, ma a te cosa piace, no, della Lomellina? Quel posto piatto, brutto, dove passano, sfrecciano le macchine ai 200 all'ora. Allora, prima di tutto mi piace che ci siano delle strade dove si può andare piano e non necessariamente si va ai 200 all'ora. Quindi tutti quelli dicono: guarda, vai a vedere la Lomellina, ma passa di lì e non andare di là. Basta vedere, insomma, qui quando arrivi alla Sforzesca, basta girare qui dentro e il mondo cambia totalmente il paesaggio. Ma le cose che ti colpisce è questo grande paesaggio agricolo e questi cieli che sono, secondo me, unici, cioè che variano, che cambiano e che non sono usuali. Cioè il cielo di Lomellina è un cielo di Lomellina. Quando uno ti dice: ma che cielo è quello, devi andarci, devi vederlo. E lo stesso con il patrimonio culturale e culturale delle risaie, dei risaie. Allora, questo è un libro che va dentro, no? Cioè mette anche il dito dentro alla piaga di un'agricoltura, che muore, di un'agricoltura che sente le sirene, no? che l'attivano da un'altra parte, perché oggi può essere più interessante fare in modo che nei terreni dove cresce il riso si possano smaltire i fanghi dei depuratori, si possano fare i parchi fotovoltaici, si possa portare via la terra come se la terra fosse un business e non un luogo dove tenere piantati i piedi, no? Cioè questa cosa, la metà del mondo, diceva Paolo prima, vive l'agricoltura, gli ha detto che l'agricoltura in Italia sono pochissimi, perché l'Italia nel dopoguerra ha imparato benissimo la lezione che dice che un paese avanzato è un paese che ha pochi addetti in agricoltura. Questa è la lezione degli economisti, no? Cioè meno sono gli addetti all'agricoltura, più un paese è avanzato. E l'altra cosa, il coltivare la terra, l'essere contadini, era il legame con il prima, cioè con il prima del cambiamento, no? Cioè, io penso che veramente il simbolo, l'emblema di questo cambiare sia quando la gente ha buttato via i tavoli di legno per comprare i tavoli di formica, no? Quello è stato è solo chi ha tenuto il tavolo di legno perché non ha capito, delle volte qualcuno ha tenuto perché non ha capito, si è ritrovato nel tempo invece ad avere un tavolo invece che una cosa da buttare via, no? Allora, in questa cosa noi paghiamo il fatto che gli agricoltori, i contadini sono stati la nostra vergogna, noi siamo vergognati di essere contadini, i figli di contadini che venivano a scuola con noi erano considerati i figli dei poveracci, sono inventati parole nuove, no? Tipo appunto agricoltore, imprenditore agricolo, no? Cioè, contadino cos'è? È una robaccia. E tutto questo ci ha allontanato dalla terra, come dice il mio amico Giorgio Conti, che insegna paesaggio all'Università di Venezia. Lui dice: sì, dice, i cinesi di fronte alla prima grossa crisi industriale hanno preso la valigia e sono tornati alla terra, no? se gli italiani decidessero domani mattina di tornare alla Terra, scoprirebbero che la Terra non c'è più, che quindi è una delle grandi cose intorno alle quali vale la pena di ragionare. Ecco, quel libro tira fuori degli spunti, ti dice delle cose che ti vengono in mente viaggiando, ti racconta dei luoghi così come li ho visti e così come la storia e le storie me le hanno fatti vedere. Quindi non, è un libro che vorrebbe sollevare delle domande alle quali magari uno può cominciare a rispondersi mescolando un risotto una sera in cucina. Grazie.